Componimento 22esimo dei Canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Le ricordanze. Vaghe stelle dell'orsa, io non credea tornare ancor per uso a contemplarvi sul paterno giardino scintillanti e ragionar con voi dalle finestre di questo albergo ove abitai fanciullo e delle gioie mie vidi la fine. Quante immagini un tempo e quante fole creommi nel pensier l'aspetto vostro e delle luci a voi compagne. Allora che, tacito, seduto in verde zolla, delle sere io solea passar gran parte mirando il cielo ed ascoltando il canto della rana rimota alla campagna. E la lucciola errava appo le siepi e in sulaiuole, sussurrando al vento i viali odorati ed i cipressi là nella selva. E sotto al patrio tetto sonavan voci alterne e le tranquille opere dei servi. E che pensieri immensi, che dolci sogni mi ispirò la vista di quel lontano mar, quei monti azzurri che di qua scopro e che varcare un giorno io mi pensava arcani mondi, arcana felicità fingendo al viver mio, ignaro del mio fato. E quante volte questa mia vita dolorosa e nuda volentier con la morte avrei cangiato. Né mi diceva il cor che l'età verde sarei dannato a consumare in questo natio borgo selvaggio intra una gente zotica, vil, cui nomi strani e spesso argomento di riso, di trastullo, son dottrina e saper, che modia e fugge, per invidia non già, che non mi tiene maggior di sé, ma perché tale estima ch'io mi tenga in cor mio, sebben di fuori a persona giammai non ne fo segno. Qui passo gli anni, abbandonato, occulto, senza amor, senza vita, ed aspro a forza tra lo stuol de malevoli divengo. Qui di pietà mi spoglio e di virtudi e sprezzator degli uomini mi rendo per la greggia co appresso. E intanto vola il caro tempo giovanil, più caro che la fama e l'allor, più che la pura luce del giorno e lo spirar. Ti perdo senza un diletto inutilmente in questo soggiorno disumano intra gli affanni o dell'arida vita unico fiore. Viene il vento recando il suon dell'ora dalla torre del borgo. Era conforto questo suon, mi rimembra alle mie notti quando fanciullo nella buia stanza per assidui terrori io vigilava sospirando il mattin. Qui non è cosa ch'io vegga o senta, onde un'immagine dentro non torni e un dolce rimembrar non sorga. Dolce per sé, ma con dolor sottentra il pensier del presente, un van desio del passato ancor tristo e il dire io fui. Quella loggia colà, volta agli estremi raggi del dì, queste dipinte mura, quei figurati armenti e il sol che nasce su romita campagna, agli ozi miei porser mille diletti, allor che al fianco m'era parlando il mio possente errore, sempre ov'io fossi. In queste sale antiche, al chiaror delle nevi, intorno a queste ampie finestre, sibilando il vento, rimbombaro i sollazzi e le festose mie voci al tempo che l'acerbo, indegno, mistero delle cose a noi si mostra pien di dolcezza. Indelibata, intera, il garzoncel come inesperto amante la sua vita ingannevole vagheggia e celeste beltà fingendo ammira. O speranze, speranze, ameni inganni della mia prima età, sempre parlando ritorno a voi che per andar di tempo, per variar d'affetti e di pensieri, ubliarvi non so. Fantasmi, intendo, son la gloria e l'onor. Diletti e beni, mero desio, non ha la vita un frutto, inutile miseria. E se ben voti son gli anni miei, se ben deserto, oscuro, il mio stato mortal, poco mi toglie la fortuna, ben veggo. Ahi, ma qual volta a voi ripenso, o mie speranze antiche, e da quel caro immaginar mio primo. Indi riguardo il viver mio sì vile e sì dolente, e che la morte è quello che di cotanta speme oggi m'avanza. Sento serrarmi il cor, sento ch'al tutto consolarmi non so del mio destino. E quando pur questa invocata morte sarammi allato e sarà giunto il fine della sventura mia, quando la terra mi fia straniera valle e dal mio sguardo fuggirà l'avvenir, di voi per certo risovverrammi e quell'imago ancora sospirar mi farà, farammi acerbo l'esser vissuto indarno e la dolcezza del dì fatal tempererà d'affanno. E già nel primo giovanil tumulto di contenti, d'angosce e di desio morte chiamai più volte e lungamente mi sedetti colà sulla fontana pensoso di cessar dentro quell'acque la speme e il dolor mio. Poscia, per cieco malor, condotto della vita in forse, piansi la bella giovanezza e il fiore dei miei poveri dì, che sì per tempo cadeva e spesso all'ore tarde, assiso sul conscio letto, dolorosamente alla fioca lucerna poetando, lamentai co silenzi e con la notte il fuggitivo spirto e da me stesso in sul languir cantai funereo canto. Chi rimembrar vi può senza sospiri o primo entrar di giovinezza o giorni vezzosi inenarrabili allor quando al rapito mortal primieramente sorridon le donzelle, a gara intorno ogni cosa sorride, invidia tace, non desta ancora, ovver benigna. E quasi, inusitata maraviglia, il mondo la destra soccorrevole gli porge. Scusa gli errori suoi, festeggia il novo suo venir nella vita, ed inchinando mostra che per signor l'accolga e chiami. Fugaci giorni a somigliar d'un lampo son dileguati, e qual mortale ignaro di sventura esser può se a lui già scorsa quella vaga stagion, se il suo buon tempo, se giovanezza, ahi giovanezza, è spenta. O Nerina, e di te forse non odo questi luoghi parlar? Caduta forse dal mio pensier sei tu? Dove sei gita, che qui sola di te la ricordanza trovo, dolcezza mia? Più non ti vede questa terra natal, quella finestra ond'eri osata favellarmi ed onde mesto riluce delle stelle il raggio è deserta. Ove sei che più non odo la tua voce sonar, siccome un giorno quando soleva ogni lontano accento del labbro tuo ch'a me giungesse il volto scolorarmi. Altro tempo, i giorni tuoi furo, mio dolce amor, passasti. Ad altri il passar per la terra oggi è sortito e l'abitar questi odorati colli. Ma rapida passasti, e come un sogno fu la tua vita, ivi danzando, in fronte la gioia ti splendea, splendea negli occhi quel confidente immaginar, quel lume di gioventù quando spegneali il fato e giacevi. Ahi, Nerina, in cor mi regna l'antico amor, se a feste anco talvolta, se a radunanze io movo, infra me stesso dico, o Nerina, a radunanze, a feste, tu non ti acconci più, tu più non muovi. Se torna maggio e ramoscelli e suoni, van gli amanti recando alle fanciulle, dico, Nerina mia, per te non torna primavera giammai, non torna amore. Ogni giorno sereno, ogni fiorita piaggia ch'io miro, ogni goder ch'io sento, dico, Nerina or più non gode, i campi, l'aria non mira. Ahi, tu passasti, eterno sospiro mio, passasti, e fia compagna d'ogni mio vago immaginar, di tutti i miei teneri sensi, i tristi e cari moti del cor, la rimembranza acerba. Fine del componimento 22esimo.